Justin Rain Quartet. And it's a time to when your gravity falls and negativity don't pull through. Don't pull when you're down or in Morgan Avenue. There's some angry woman that really make a mess of you. Perso nella pioggia a Juarez e siamo pure di Pasqua e la forza di gravità ti manca e la negatività non ti tiene su e non darti aria sulla Morgan Avenue, là ci sono delle tipe affamate che ti conciano per le feste e se vedi Santana ringraziala per me. Io non posso muovermi, le dita annodate, senza la forza di alzarmi e farmi un goccio. E il mio migliore amico, il dottore, non sa dirmi cosa ho. If you see Santana, please tell her thanks a lot. I can hold my finger. Stuff. Everybody stand behind and the game go around.